Giovedì 14 aprile del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza. Ci ascoltate su, appunto, su queste frequenze oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page ci ascolta la diretta. Questa è Visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta e sulla trasmissione basta andare sempre sull'home page, sulla colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Giulia Mariani di Adler Entertainment sulla distribuzione del film The Idol, al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena in uscita in sala oggi giovedì 14 aprile. Giulia, ben ritrovata su queste frequenze. Ciao a tutti. Come va? Buongiorno. Bene, bene. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente diamo alcuni riferimenti di trama del film. Allora, The Idol è la storia incredibile perché è vera di Mohamed Assaf, che è un ragazzo di Gaza che nel 2013 ha vinto il talent show Arab Idol, che è praticamente l'equivalente arabo di American Idol, il talent sul canto. E il film racconta proprio la sua storia dall'infanzia. Lui è nato e cresciuto a Gaza in un campo profughi, quindi in assoluta povertà, in condizioni difficili, ma con questo sogno di fare il cantante. Dotato di una voce pazzesca, Mohamed Assaf decide un giorno di presentarsi ai provini di Arab Idol, che sono in Egitto, al Cairo, e quindi fa questo viaggio assurdo verso l'Egitto, riesce a passare il confine in modo clandestino e si presenta alle selezioni, va avanti nel corso del programma e vince il talent. E questa è la storia incredibile. Senti, qualcosa sulla regia, cosa ne sappiamo rispetto alla regia? Allora, il regista è Hani Abu Assaf, che è un regista palestinese che si è dedicato finora a film abbastanza di nicchia e politicamente impegnati. I due più famosi sono Omar e Paradise Now, per i quali è stato due volte candidato all'Oscar come miglior film straniero. Mm-hmm. E con questo film ha deciso di raccontare una storia molto più universale, semplicemente per il fatto che è rimasto lui stesso sconvolto e emozionato dal riscontro che questo evento, la vittoria di questo ragazzo al talent show, ha suscitato in tutto il mondo arabo, perché è stato veramente un evento che è stato percepito come per noi può essere la finale dei mondiali, cioè proprio una cosa clamorosa. Si vedono anche le immagini da Gaza quando lui appare sullo schermo, credo siano anche immagini tratte dal vero e sono di entusiasmo. Sì, assolutamente, nel film sono presenti alla fine le vere immagini del vero cantante, del vero talent show. Senti, per dove avete incontrato questo film e come poi avete scelto la distribuzione? È un film che abbiamo seguito fin da subito dalla sceneggiatura, perché ci sembrava talmente pazzesco che non potevamo lasciarlo sulla pagina, e quindi dalla sceneggiatura poi abbiamo seguito tutta la produzione e lo sviluppo e abbiamo deciso di distribuirlo in Italia. Siamo il primo paese in Europa a distribuirlo. È già uscito in alcuni paesi arabi e in Europa è stato acquistato in Germania, Francia e altri paesi, però noi siamo i primi. E quindi con orgoglio ve lo facciamo vedere. Senti, dicevi dalla fase di sceneggiatura, ecco, la storia di una persona in fuga dalla propria terra martoriata all'inseguimento di un sogno. È la realtà che vivono molte persone, soprattutto giovani, ma insomma verifichiamo tutti i giorni che sono persone di tutte le età che premono alle frontiere di ogni posto in cui la vita potrebbe essere migliore per loro. Assolutamente, ed è questa l'universalità del tema del film, che può essere abbracciata da qualsiasi cultura e da qualsiasi situazione politica e sociale. Questo è assolutamente un punto di forza della storia, che proprio per questo speriamo possa coinvolgere e interessare al più ampio numero di persone possibili. Oggi nelle sale in quante copie, Giulia? In 68. 68. Benissimo, non sono neanche numeri piccoli. Allora io ti dico un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao Giulia, a presto. Ciao. Giulia Mariani di Adler Entertainment sulla distribuzione del film The Idol in uscita in sala oggi giovedì 14 aprile. Federico Micali, regista del film L'Universale, in uscita in sala oggi giovedì 14 aprile. Federico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie ragazzi, bentrovati, sono contento di ritrovarvi. Allora, L'Universale, uno storico cinema al quale credo sia stato dedicato anche un documentario, perché più indietro nel tempo mi sembra di averne già parlato. Mi ricordo anche della famosa Vespa Rossa che entra in sala, insomma è stato già attenzionato questo storico locale dedicato al cinema a Firenze. Sì, ci avevo fatto un documentario nel 2008, quindi un bel po' di tempo fa, era un documentario dovuto, perché l'Universale raccoglie un sacco di ricordi di chi ha vissuto la città a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, perché è un cinema vivace, è vivo, un punto di riferimento per un sacco, però non era solo un cinema. Diciamo che era un misto tra centro sociale, cineclub, casa del popolo, era tutto insieme, e il cinema ovviamente faceva la padrona, perché si proiettavano dei grandi film che però in sala venivano completamente rivisti da un pubblico di Sanfrediano, quindi molto borgataro in qualche modo, che quindi si divertiva a cesellare ogni battuta, cioè il pubblico sanfrediano originariamente, perché poi il pubblico sanfrediano si è unito tutto quello che era il movimento del 77, quindi la parte diciamo più forte, più attiva della città, ecco. Sì. Senti Federico, tu sei stato un fruitore di quell'esperienza? Ma che? Sei troppo giovane. Allora, io infatti ho cercato di rimediare facendoci nel documentario un po' il film. Allora io sono stato all'Universale, sono stato una volta all'Universale nell'89 e ho visto il film Miranda di Tinto Brass, e tu puoi immaginare che cosa veniva fuori alla visione di un film del genere, no? Cioè un commento continuo, divertentissimo, era una gara alla battuta più sagace, al commento più tecnico sul tipo di penetrazione o altre cose. Quindi io mi sono divertito molto, poi si beveva, si fumava, c'era sempre una cappa di fumo di ogni genere in sala, quindi è stata un'esperienza divertente, ma in realtà era diciamo il colpo di coda di un cinema che era rimasto soltanto nell'aspetto divertente esteriore, ma aveva perso quel contenuto, quello spessore che invece era stata la parte politica degli anni 70 a rappresentare il suo punto di maggior livello, seguito poi da quello degli anni 80, perché a Firenze degli anni 80 anni di Litfiba, Diaframma, Neon, sono stati anni in cui Firenze ha avuto qualcosa da dire, forse l'ultima volta dal punto di vista artistico che ha avuto qualcosa da dire Firenze, però insomma ecco, e anche quella, anche se pure le atmosfere dei Litfiba, dei Neon non erano proprio da Universale, ma comunque si sono radicati lì, perché era un film dove si vedeva molto cinema musicale, no? Quindi è un'esperienza comune veramente a tanto. A Firenze chiunque abbia più di 40 anni ha delle storie da raccontarti sull'Universale, ma quello che ci piaceva fare a noi non era un'operazione di nostalgia, infatti noi abbiamo ambientato delle storie all'interno dell'Universale. Cioè l'Universale per noi era stato un teatro degli eventi che ha funzionato benissimo per andare a raccontarci delle storie di ragazzi che crescono in quegli anni, in quell'ambiente, che assorbono da quello che passa attraverso lo schermo o in quel cinema tutti i cambiamenti che ci sono stati in quel periodo. E se dobbiamo parlare in realtà di un qualche cosa che ci è particolarmente a cuore a noi e credo anche a voi, è adesso l'importanza che ha quella che abbiamo definito la piccola sala resistente, cioè dell'importanza che ancora adesso c'è nell'avere quelle sale che si differenziano dai multisala un po' omologati, un po' plastificati, dove vedi il cinema ma in realtà cercano di venderti altro, ecco. Ecco, da questo punto di vista com'è la situazione magari monosala a Firenze? Allora, la situazione monosala a Firenze è abbastanza brutta, come un po' ovunque, diciamo che va meglio rispetto a qualche anno fa, forse perché ci siamo fatti figli un po' ovunque e abbiamo scoperto il concetto di art house, no? Che è molto più figo di dire che monosala. Per cui le art house stanno un po' risorgendo a Firenze come altrove, per cui appunto qualche cosa si muove ed è importante che si muova, perché appunto c'è un po' l'idea di riscoprire il cinema come ambiente, non soltanto come fruizione del film, ma come ambiente. Quindi appunto nascono i cinema col bar, dove, ed è una cosa secondo me importante, perché spesso a multisala dove il film ci trovi nel parcheggio, no? Che non è proprio il massimo per far decantare il film. E quindi c'è qualche cosa, per esempio noi usciamo su due sale che sono molto importanti a Firenze, che sono Spazio Alfieri e Stenzen, ma poi insomma anche a Roma mi hanno detto appunto che Madison e Chuck sono due cinema molto molto vivi in questo senso. Sicuramente non potremmo non passare dal Kino e dall'Apollo a Roma, quindi sì, sì, insomma è importante che queste sale ci siano e resistano. Senti Federico, dicevi ognuno e ognuna avevano da raccontare storie, ecco, ti sei basato un po' su queste in fase di sceneggiatura? Allora, come dicevamo prima, l'Universale è lo sfondo, sì. È uno sfondo importante perché assurge a coprotagonista, però non potevamo, cioè quindi l'importante era anche arrivare fuori Firenze, quindi non raccontare una storia per i fiorentini che già la conoscono, ma certo. Raccontare una storia che avesse, cioè è una bella storia che secondo me diverte e viene apprezzata anche fuori, per cui abbiamo tratteggiato l'Universale per quello che è che era normalmente, quindi questa battuta continua, questo modo di interagire con lo schermo. Ovviamente sono entrati anche alcuni degli episodi classici, due su tutti, uno appunto durante la proiezione di Birdie delle Ali della Libertà, una vespa che passa la biglietteria, entra in sala, fa il giro della sala e riesce. E un detto che poi è uscito anche dall'Universale per diventare un modo comune, sapete che a Firenze spesso si usa il gnene, dagnene, fagnene, e allora alla scena di Ultimo Tango a Parigi, quando Marlon Brando tira fuori il burro, uno spettatore che poi è entrato nella leggenda ha cercato di parafrasare la merenda, che è il pane burro acciughe, urlandogli a burracciugagnene, e questo è probabilmente dovrà entrare nel dizionario dell'Accademia della Crusca dopo Petaloso, perché effettivamente a Firenze è ancora molto utilizzato, ecco. Senti Federico, da oggi nelle sale con che modalità distributive? Una distribuzione indipendente come lo è stato tutto il processo lunghissimo di produzione, però molto arrembante, per cui noi diciamo cerchiamo di coprire, non abbiamo la forza di uscire in 80 copie nel primo weekend, però copriamo varie città, appunto a Roma usciamo al Madison e al Chuck, ma la cosa importante appunto che il film riesca a fare qualche numero importante nel primo weekend, perché ovviamente, come sapete, se il film riesce a farsi notare nel primo weekend, allora rimane e anzi viene richiesto. Certo. Se il primo weekend invece ha numeri bassi, viene smontato e finisce lì. Allora Federico, in questo andiamo al cinema, ragazzi. Andiamo al cinema, in questo caso dacci anche dei riferimenti web per sapere qualcosa di più sulle sale. Sì, guarda, allora noi cerchiamo di aggiornare il tutto sulla pagina Facebook del film, okay, che è Universale il Film, quindi su facebook.com basta mettere Universale il Film e lo trovate. C'è anche la pagina web del film, che è appunto universalefilm.it. Un abbraccio. Ma riguarda le date, è Facebook che la fa. Sempre Facebook. Un abbraccio Federico, a risentirci presto. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Federico Micali, regista del film L'Universale, in uscita in sala oggi giovedì 14 aprile. Eccoci con Renato Sarti del Teatro della Cooperativa di Milano, regista in questo caso del documentario Risiera di San Sabba 1945-1995, La memoria dell'offesa, che sarà in programmazione su Rai Storia oggi, questa sera di giovedì 14 aprile. Renato, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie. Alle 23:20, ricordiamo, 23:20. Un'ora tarda. È un'ora tarda e bisogna segnarla. Bene Renato, allora tra l'altro di questo documentario abbiamo in progetto di estrarre l'audio e programmarlo in concomitanza del 25 aprile, ma questo è un altro discorso e riguarda il radioteatro. Dal punto di vista cinematografico, raccontaci un po' di questa storia, di questo lavoro. Beh, a farla in breve, diciamo che nel 1995, all'interno di quelle che erano le manifestazioni ufficiali per la celebrazione del cinquantennale della liberazione, proposi al Comune di Trieste, al Museo Civico della Risiera di San Sabba, di fare una lettura scenica che nasceva dalle testimonianze da una parte dei sopravvissuti alla Risiera, dall'altra dalla deportazione che parte da Trieste verso i peggiori lager nazisti, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Bergen-Belsen, Ravensburg, eccetera, eccetera, un terzo della deportazione italiana che parte proprio da quella città. Da questi due filoni, diciamo così, è nato un testo in cui venivano anche citate alcune deposizioni dei carnefici, e se avremo un attimo di tempo spiegheremo meglio questo piccolo ma importante capitolo. Proposi questa lettura scenica che nasceva da queste testimonianze e aderirono a questo progetto, e fu la molla per fare quella grossa iniziativa che compaiono in questa serie nel video, e recitarono lì all'interno della Risiera stessa il 1 luglio 1995 Giorgio Strehler, Monio Vadia, Paolo Rossi, Omero Antonutti, Marisa Fabbri, poi c'era Fulvio Fazzarano, c'era Barbara Vainorin, c'era Omero Antonutti, non vorrei dimenticare nessuno, però erano tantissimi, Marisa Fabbri, Orazio Bobbio, Adela Regge e altri attori di origine slovena, croata e ebraica. Alla lettura scenica parteciparono più di 4.000 persone, fu un evento, diciamo così, abbastanza straordinario per la città. Ultima nota, non certo solo per merito mio, ci mancherebbe, perché poi grande importanza ha avuto la giornata della memoria, che è stata avevo uno sternuto, scusatemi, è venuto. Diciamo grazie anche alla giornata della memoria, diciamo che il Museo Civico della Risiera, cioè il Monumento Nazionale Risiera, che ai tempi nel 95 era, mi sembra, l'ultimo almeno visitato, il penultimo almeno visitato di Trieste, oggi supera, mi sembra, i 12-13 mila presenze ed è il secondo museo più visitato della città. Anche perché è stato il primo, se non sbaglio, cioè l'unico campo di concentramento in Italia. Beh, è stato l'unico campo di concentramento in Italia, no, l'unico campo di concentramento in Italia nazista con forno crematorio. Sì, con forno crematorio, esatto. Con forno crematorio, sì, delle 3.000, sì. 5.000 le vittime, e aveva altre due o tre particolarità abbastanza straordinarie. Uno, che è stato l'unico campo con forno crematorio, quindi di sterminio, in Europa situato all'interno di una città. Per chi va a Risiera, alla Risiera si può accorgere che arriva con il tram numero 10, a poche centinaia di metri c'è una via, la via Flavia, che è una strada di grande scorrimento, una specie di tangenziale triestina, a poche, neanche a 150-100 metri c'è lo stadio, ai tempi non c'era il campionato di calcio, però la Triestina faceva delle amichevoli, e ci sono persino due trattorie, una posta davanti all'ingresso della Risiera a 20 metri, esiste ancora oggi, dove i nazisti, gli ucraini, andavano ad abbinazzarsi prima di fare il lavoro sporco. Questa è la prima caratteristica. Seconda, se uno va a vedere la Risiera, vedrà che se prende una bicicletta, se prende proprio una mountain bike di quelle molto fornite di scambi, eccetera, perché il ratto dell'artiglieria che porta dalla Risiera di San Sabba al quartiere di Servola, che è sovrastante, non ce la fa, una bici normale non ce la fa, perché ha un 18%, se non sbaglio, di pendenza, e quindi uno più uno fa due, il quartiere di Servola era una specie di anfiteatro naturale, dall'alto poteva vedere quello di camion arrivare, le luci di notte, il rumore delle radio che venivano accese a tutto volume durante la notte mentre facevano i massacri, gli spari, le urla. Quindi questa doppia particolarità di essere vicino a una città e vicino a un quartiere abitatissimo operaio la rende particolarmente incredibile. Altro aspetto particolare, ritorno a quello che avevo detto prima, se avessimo avuto un attimo di tempo, i criminali, gli ufficiali che presiedono e che portano avanti, dirigono la Risiera, non sono ufficiali di seconda pacca, ma non sono altro che quelli, diciamo una specie di crem dello sterminio, che a farle in breve, prima nel 39 abbiamo gestito l'operazione eutanasia, l'eliminazione degli handicappati, i malati mentali, 70.000 tedeschi, dove si sperimenta per la prima volta l'eliminazione fisica col gas, con psicofarmaci, con diete alimentari particolari. Lo stesso gruppo poi passa all'Action Rainer, che significa Sobibor, Treblinka e Belzec, gli unici tre dei quattro Vernichtungslager. Le cifre spiegano meglio di un'altra cosa. Su 2 milioni di ebrei morti, quasi esclusivamente ebrei, sopravvivono soltanto 74 persone. Il treno arrivava, scusa la doccia, gas, dalla doccia non c'era l'acqua, ma gas, e poi cremazione. Questi personaggi, questa creme dello sterminio, poi viene depistata e viene portata a Trieste, anche perché lì c'era una grande lotta partigiana, e poi perché sappiamo che Trieste da secoli era, diciamo così, l'ambizione, lo stesso Goebbels ambiva ai mari caldi del Mediterraneo, all'Adriatico, insomma, ecco. E quindi diciamo che ha queste caratteristiche. Senti, Renato, per saperne di più c'è un sito internet, una pagina Facebook relativa al documentario? Sì, sul Teatro della Cooperativa trovate naturalmente tutto, poi comunque conviene anche vedere il Facebook, il video, l'internet, il sito della Risiera. Aggiungo solo un piccolo particolare, se c'è un attimo di tempo, certo, che una nota dolente va detta. Questo è un video che solo per i nomi che ci recitano dentro, uno su tutti strela, però dimentichiamo Dario Corruzza, dimentichiamo Paolo Rossi, Manuel Adia, Bobo Sforti, Marisa Fabio, eccetera eccetera, e anche per l'importanza storica dell'evento, direi che sia stato fatto bene, male, sia stato scritto direttamente in maniera più o meno encomiabile, ma come mai è rimasto 20 anni negli archivi RAI? Ma come mai prima non sono riusciti a mandarlo in onda? Ecco, questa non è una critica che rivolgo io, ma oggi Giannatorio Stella sul Corriere, sì, giustamente fa notare che 21 anni che questo video non sia mai stato trasmesso, la dice un po' lunga. Io sono più ottimista di quello che scrive lui, però la dice lunga su come in qualche maniera da parte di qualcuno è stato trattato il materiale così, sì, delicato e importante della memoria storica. Ecco, avremo uno strumento mandandolo nelle scuole, certo, che avrebbe potuto in qualche maniera aiutare un po' questo duro, difficilissimo percorso di ricordare cosa è stato in tutto il suo orrore la pagina dello sterminio nazifascista. Avremo modo di riparlarne e di sentire l'audio nell'ambito del radioteatro, insomma, intorno al 25 aprile, credo il 26. Renato, io ti abbraccio e ci sentiamo fra qualche giorno. Anch'io, abbraccioni, salutoni a tutti. Allora, ricordiamo su Rai Storia alle 23:20 di stasera, sì. Di stasera, esatto. Un abbraccio Renato, ciao. Altrettanto a te, salutoni cari. Ciao. Renato Sarti del Teatro della Cooperativa di Milano, regista del documentario Risiera di San Sabba 1945-1995, La memoria dell'offesa, su Rai Storia, oggi alle 23:20. Ed eccoci con Antonello Faretta, regista del film Monte d'Oro, in uscita in sala domani, venerdì 15 aprile. Antonello, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, buongiorno a te, buongiorno a tutte le persone che sono in ascolto. Raccontiamo subito questa storia, Monte d'Oro, di cosa ci racconta? Monte d'Oro è la storia di questa donna americana nata in un borgo oggi abbandonato che nella realtà si chiama Traco, ma nel film ha un nome mitico, immaginario se vogliamo, Monte d'Oro appunto. Questa donna decide di compiere un viaggio e di raggiungere il suo paese natale, ma una volta arrivata qui in questo luogo si imbatte in uno scenario di rovine, in un paesaggio completamente abbandonato e misterioso. Dunque una volta qui lei farà conoscenza si imbatterà negli spettri del suo passato, negli spettri di questo luogo che le racconteranno le sue origini, le racconteranno la sua appartenenza per un'ultima volta, un'ultima definitiva volta. Senti, come nasce l'idea? L'idea nasce, mi piace pensare all'idea come un fuoco, il fuoco iniziale del film. Io sono lucano e vivo non molto distante lì da Cracco, questo paese abbandonato, sì, dove abbiamo girato appunto. L'idea nasce, come spesso accade, dalla realtà. Io ho incontrato la protagonista del film, Pia Marie Men, nata appunto in questo luogo e che ritorna nella realtà dopo 55 anni alla ricerca della madre biologica e dei suoi fratelli. Ho conosciuto Pia, è mosso da un forte innamoramento nel silenzio di questo luogo, come dicevo prima, è estinto. Ho deciso di andare a vivere lì e di cercare di come un piccolo sarto, se vogliamo, di ricucire le storie di questo luogo partendo dalla storia della protagonista Pia appunto, e di andare un po' alla ricerca del tempo perduto, no? Cercando di raffigurare in questo microcosmo un po' i tempi che stiamo vivendo, questi tempi di rovina e di abbandono. E nasce dall'amore nei confronti della mia terra, della nostra Italia, della nostra nazione, e dell'amore evidentemente nei confronti della storia di questa donna che mi ha fatto un grande dono nel regalarmela appunto. Senti, tra una curiosità, nelle immagini si vede anche il crollo di una delle strutture del paese, di una parete, sì, di un'abitazione. E è stato, cioè, mentre stavate filmando è successo questo? Sì, mentre il cosiddetto set in cui ci muovevamo era appunto questo corpus precario del paese abbandonato, e mentre giravamo crollavano degli edifici. Anche se quella scena a cui tu ti riferisci non si vedrà al cinema, è un gioco tra la realtà e la finzione. Abbiamo cercato in tutti i modi di sfidarlo questo luogo, e quindi ci abbiamo messo anche del nostro in alcuni momenti. Senti, questo clima, questa atmosfera fuori dal tempo e mitica, come hai deciso di renderla sullo schermo? Ho girato il film in pellicola, in 16 mm, alternando, sì, una parte più onirica, diciamo così, le parti, mi piace pensare prustianamente, estesie che ha questa donna nel momento in cui arriva a contatto con le pietre, con le rovine, con questa decadenza, no? E ho fatto questa scelta perché il film contiene molte immagini di repertorio dell'archivio familiare di Pia e di questa collezione di alcuni discendenti di Cracco, nostalgici, che vivono in Nord America tra Toronto e New York. questa associazione si chiama Craco Society, che già di per sé è un paradosso, se vogliamo, luogo abbandonato che rivive dall'altra parte dell'oceano. Mm-hmm. Ho iniziato una lunga corrispondenza con queste persone che hanno iniziato a regalarmi del materiale di repertorio di quando c'era la vita in questo luogo, e ho cercato di dare con le mie riprese, con le nostre riprese, una sorta di continuità con il passato, con questo materiale estinto, ma anche, se vogliamo, ho cercato di fare un lavoro sullo spazio e sul tempo affinché ci fossero dei deragliamenti e non si capisse misteriosamente in quale epoca questa donna si stia muovendo, se nel presente o nel passato, o se nel presente e nel passato contemporaneamente. Mm-hmm. Come se ci fosse uno spazio, un tempo a fisarmonica che si apre e si chiude a seconda del pathos e del viaggio che compie questa donna. Mm-hmm. Antonello, due cose in chiusura: in quante coppie, in quante sale sarà da domani, e poi se c'è una pagina Facebook, un sito internet a cui far riferimento per saperne di più. Sì, da domani sarà un po' in tutta Italia, a Roma sarà al cinema Madison per una settimana, Milano sarà il cinema Palestrina appunto da domani per altrettanto una settimana, e poi sarà un po' in tutta Italia in proiezioni secche, Bari, Bologna, Torino, Potenza, Matera, Palermo. Abbiamo dato un titolo anche, un nostro piccolo omaggio al grandissimo Rossellini, abbiamo dato un titolo a questa distribuzione, autodistribuzione, perché il film distribuiamo con il nostro studio che ha prodotto il film, la Noeltan. Abbiamo dato questo nome, Viaggio in Italia, appunto un po' un omaggio a Rossellini, un po' la nostra idea di in questa distribuzione di provare a raccontarlo, il nostro paese, questa contemporaneità, con tutte le persone che incontreremo. Bene. Siamo nell'ordine di una ventina di sale. Bene. Antonello, io t'abbraccio, un in bocca al lupo, e speriamo a presto. Grazie mille, ciao. Grazie mille. Buona giornata, un anche abbraccio a te. Ciao Antonello. Ciao, ciao. Antonello Faretta, regista del film Monte d'Oro, in uscita in sala domani, venerdì 15 aprile. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Federico Cruciani, regista del film Il Bambino di Vetro, in uscita in sala oggi giovedì 14 aprile. Federico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie dell'invito. Raccontiamo un po' a chi ci ascolta la storia del Bambino di Vetro, Federico. Sì, Il Bambino di Vetro è, in sintesi una storia di formazione. Una storia di formazione che vede al centro un bambino di 10 anni e racconta la perdita dell'innocenza, se vogliamo, di questo bambino. Perdita dell'innocenza che avviene attraverso, come spesso avviene nella vita di tutti noi, attraverso la messa a nudo della figura paterna. In particolare attraverso la scoperta della vita misteriosa che conduce il padre, di un segreto, che il padre gli ha sempre tenuto nascosto. Potrei sintetizzarla così. Sì. È un noir, a me piace definirlo un noir pirandelliano, ed è un film, ambientato in Sicilia, è un film siciliano. Palermitano, per la precisione. Palermitano, una Palermo, un po' atipica, è stato girato in inverno, quindi non è una Sicilia, assolata e piena di luce, è una Sicilia più invernale, più umbra, un po' grigia. La Sicilia è un luogo molto fotografato, perché è stato molto fotografato da cinema, televisione, quindi è molto difficile per me girare in Sicilia e cercare di essere, se vogliamo, originali. Sì. Senti, lo spunto per il film da dove viene? Lo spunto, diciamo, la prima, guarda, è stato un lavoro lunghissimo. Lo spunto nasce nel lontano 2008 con la lettura di un romanzo di un mio amico che si chiama Giacomo Cacciatore, un romanzo dal titolo Figlio di Vetro, pubblicato da Einaudi, è uno scrittore palermitano, e io rimasi folgorato allora da questa storia, neanche da tutto il libro, ma da una parte di questo libro. Sì, sì. Infatti il film è liberamente ispirato a, perché il libro era ambientato, partiva dalla fine degli anni 70 e arrivava fino ai primi 90, quindi alla strage di Falcone Borsellino, e il bambino diventava, quindi, anche se vogliamo, diventava adolescente. Io mi sono fermato, diciamo, alla prima parte di questo libro in cui si raccontava appunto questa dinamica familiare che a me interessava allora. Senti, da oggi nelle sale, come sarà la distribuzione, Federico? La distribuzione, come potete immaginare, è molto complicata, soprattutto per un film piccolo e, diciamo, piccolo come questo. La distribuzione è in mano a questa storica, diciamo, distribuzione indipendente che si chiama La Bottanta di Bergamo, e che ha una capillare diffusione soprattutto al nord Italia. Quindi uscirà soprattutto, inizierà a uscire a Milano, Torino, Bologna, insomma in alcuni centri del nord, e sarà un po' più lenta, diciamo, per quanto riguarda il centro e il sud Italia, stranamente, perché poi è un film girato al sud, ma ci daremo da fare per farlo uscire un po' dovunque. Sì, e per saperne di più in rete dove si può cercare? In rete c'è una pagina Facebook del film, che si chiama Il Bambino di Vetro, dove cerchiamo di aggiornare il più possibile, aggiorneremo anche lì sulle sale, le città dove verrà proiettato, e poi la pagina della distribuzione, che è www.labottanta.it. Benissimo. Federico, un abbraccio, a risentirci presto, grazie. Speriamo bene. Grazie mille, grazie, buon lavoro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Federico Cruciani, regista del film Il Bambino di Vetro, in uscita in sala oggi, giovedì 14 aprile. Con Fulvia Orifici della sesta edizione di Sguardi sul Reale, Festival del Cinema Documentario alle Fornaci, Centro Culturale Auditorium, Terra Nuova, Bracciolini, provincia di Arezzo, da oggi fino al 17 aprile, quindi 4 giorni. Fulvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Allora, chiaramente documentario, noi ce ne occupiamo spesso e volentieri, Sguardi sul Reale già parla molto chiaro questo titolo, sesta edizione, dici un po' di questa rassegna, Fulvia. Allora, anzitutto, va bene, la sesta edizione, come un po' le edizioni precedenti, sarà concentrata sul cinema documentario, e avremo proiezioni serali e pomeridiane in interno e in esterno. Sì. E, tanto per citarne uno, stasera inizieremo con O Argenté, che è un documentario distribuito dalla Wanted e realizzato da un regista siciliano esiliato in Francia, che racconta attraverso le testimonianze video dei suoi compatrioti il disastro della guerra civile che ormai da anni si consuma in Siria. E saranno presenti, purtroppo non siamo riusciti a avere il regista, però saranno presenti la giornalista Valentina Petrini, che in questo periodo si sta molto occupando della situazione, è andata sui posti come inviata a seguire l'esodo della popolazione siriana attraverso i vari paesi verso l'Europa. Ci sarà Karin Franceschi, che è andato in quei territori a combattere soprattutto per la causa curda. Tra l'altro ricordo che nel documentario c'è anche autore di un libro. È autore del libro Il Combattente, all'interno del quale ha raccontato appunto questa sua esperienza fortissima. Sì. Ci sarà anche Rojava Calling, che è la staffetta sanitaria che praticamente ogni mese si anima per appunto portare soccorso alle popolazioni. Quindi, insomma, e Lorenzo Declic, che sì, è islamista, sì. Ci darà un punto un punto di vista storico e sulla cultura islamica legata appunto a questa terribile guerra civile. Fulvia, quante sono le opere che presenterete in questa edizione? Allora, avremo quattro proiezioni in interno, quattro in esterno, più abbiamo le proiezioni poi mattutine per le scuole. Stamattina c'è stata la prima, che è stata, ha avuto un buon riscontro, insomma i ragazzi hanno gradito molto, e saranno 12-13 proiezioni. Bene, ecco. Bene. Però ci tengo a sottolineare che sono proiezioni evento, nel senso che diciamo che quella che è la caratteristica un po' del festival è di portare in sala il film e anche un po' quello che c'è dietro e intorno al film. Certo. Tanto è vero che invitiamo gli autori, i registi, le persone coinvolte nel film, dove ovviamente possibile, e persone che sono vicine per spirito, per studio, per sensibilità alle tematiche affrontate dal film, perché diciamo la sala si amplifichi in qualche modo, certo, oltre il film, sempre sul film. Senti, e per saperne di più, il programma in rete dove si trova? macma.it. benissimo. Il programma in rete è consultabile, scaricabile e dal sito appunto www.macma.it, e poi siamo anche sui canali social Facebook, Sguardi Surreale Festival, Macma Associazione, e poi Sguardi Factory Lab, che è la sezione formativa di Sguardi, che benissimo, quest'anno conta 7 laboratori. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Bene, grazie mille Federico. Ciao Fulvia. Ciao. Ciao. Fulvia Orifici della sesta edizione di Sguardi sul Reale, Festival del Cinema Documentario alle Fornaci, Centro Culturale Auditorium, Terra Nuova, Bracciolini, in provincia di Arezzo, da oggi fino a domenica 17 aprile. Marco Berti del Palazzo delle Esposizioni per parlarci di Cine 50, 10 anni di cinema italiano fino al 22 maggio. Abbiamo perso la prima settimana, quella proprio del 1950, però insomma ci sono ancora tanti altri film. Marco, benvenuto su queste frequenze. Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato, sono felicissimo di parlare con voi. Benissimo. Perché qui al Palazzo delle Esposizioni abbiamo i film degli anni 50, che tu mi dici, ah belli, ma insomma sono un po' vecchiotti, ma secondo me non è vero assolutamente, perché appunto io mi sono domandato come faccio a convincere il pubblico della Onda Rossa che qua siamo praticamente nell'assoluta contemporaneità, anche se in questa settimana si danno film di 66 anni fa. Okay, c'ho qua davanti Francesca Pappalardo, che è la mia collega con cui, che è qua tipo badante, perché gli ho detto bene qua davanti, perché se io dico una zozzeria in qualche modo tu stacchi la cornetta di mano. E questo, cavolo, devo parlare con Federico Raponi, e ho tirato fuori per vostro onore due sound machine, che sono due macchinette. Sai cos'è una sound machine? No. Sì, forse sì. Dove ci sono degli effetti sonori? Sì. Capito? Perché ho detto, cosa c'era negli anni 50? Negli anni 50 ci si divertiva, nonostante il periodo fosse serissimo. Cioè, l'Italia è uscita dalla guerra da 5 anni. Eh sì. E per cui appunto, come tutti ci raccontano i libri di storia, piuttosto che nelle trasmissioni televisive, l'Italia si stava ricostruendo, per cui non era un periodo facile come il nostro adesso, cioè forse il periodo facile non ci sono mai stati, però negli anni 50 è come andare guardare al cinema degli anni 50, e poi entro nel merito del programma, è come tornare un po' nella camera dei segreti di Harry Potter, cioè dove l'apprendista stregone ha iniziato a mettere, come dire, quella pozione, quegli elementi di riflessione sulla nostro paese, appunto, che ho ancora utile, vedete, sto iniziando già a balbettare, Francesca concentrati perché non si capisce niente, quegli elementi che hanno fondato il nostro paese e che oggi diciamo stanno arrivando alla tettina. Cioè, negli anni 50 hanno debuttato Fellini, Antonioni, Visconti è passato dal neorealismo al grande cinema che inglobava il teatro. Cioè, si sono domandati i grandi. Francesca sta ridendo, mi ha un discorso serio. Voi siete muti, mi avete tolto la linea? No, no, ti stiamo ascoltando. Senza farmaci posso usare un effetto di farmaci? Ecco, la molla, capito? In questi anni, come dire, perché un ragazzo di oggi dovrebbe andare a vedere un film degli anni 50? Se non studia cinema e se non importa niente, o in buona sostanza ha necessità più urgenti da risolvere, perché negli anni 50 questi geni, c'è cioè anche la fortuna che in Italia si sono trovati insieme e hanno avuto la possibilità di agire alcune delle personalità della cultura in generale, cinematografica nello specifico, più importanti al mondo, che si chiamano Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Rossellini, viaggio in Italia, è stato citato poco fa dalla persona che avete intervistato, tutti insieme, Monicelli, Steno, De Sica, tutti insieme per finalmente liberi, dopo il ventennio fascista, finalmente liberi di raccontare il paese. Il neorealismo, subito dopo la guerra, come dire, ha espresso l'esigenza di portare la realtà in scena, di portarla sullo schermo, di raccontarla così com'era ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, ai nostri genitori, per raccontare il paese. Guardate, non era vero, si può dire che oggi non c'è latte, si può dire che oggi si muore, si può dire che correndo per strada si viene fucilati. Dopo 5 anni questa modalità di parlare ancora non era più sufficiente, o comunque aveva bisogno di un'aggiunta, cioè di scoprire che cos'era che faceva male anche dentro le persone, e lì escono Fellini, Antonioni. Come dire, tornare a vedere i film degli anni 50 per la prima volta significa domandare delle risposte al cinema che ci aiutano a vivere meglio. Cioè, io sono grandicello, ho 49 anni, la prossima settimana ne compio 50, se mi vuoi chiamare fammi gli auguri, io ti ringrazio sentitamente. E se non sono morto, vediamo un po' qui, vediamo perché Francesca Pappalardo che insomma, nessuno ride sulla fammacine, ma è abbastanza. Vabbè, a parte gli scherzi, io dava la possibilità di andare al cinema per domandare al cinema delle risposte alla propria vita, cioè, e qui entriamo nello specifico. Cine 50 è iniziata l'altra settimana e dura fino al 22 maggio. Noi indaghiamo la nostra vita, la storia dell'Italia attraverso il cinema per decenni. Abbiamo fatto Cine 70, Cine 60 e Cine 50 si va alla rovescia, come i gamberi, come i bambini, cioè ai bambini li piace camminare all'indietro e così inciampano e capiscono. Tra l'altro più di 30 film ne mancano ancora in programmazione, quindi c'è ancora un ampio spettro. C'è un ampio spettro, guarda, stasera c'è Persiano Chiuse, il primo film che ha parlato di prostituzione. Fu osteggiato dalla censura come non ci si può immaginare, ma riuscì a uscire e a raccontare per la prima volta i bassi fondi del sesso clandestino. Domani c'è Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, un capolavoro assoluto per capire come si fa a raccontare la miseria, come si fa a raccontare la delusione, come si fa a combatterla con gli strumenti della fantasia, ok? È l'utopia. Cioè, ora non voglio svelare, insomma, è famoso, è un film mitico, il finale di Miracolo a Milano, non so se lo posso, no, non lo voglio spoilerare, dice oggi, però ho capito, è incredibile quel film, eppure erano i padri del neorealismo, eppure erano quelli che volevano cambiare il mondo, ma hanno capito che per cambiarlo dovevano un po' anche fregare la realtà, cioè un po' introdurre altri elementi. È un cinema molto complesso, uno lo vede e pensa di essere in casa di nonna, invece in casa di nonna ci giravano Flaiano, Anna Magnani, Visconti, non so come dire, per cui se io oggi ho 25 anni forse riesco più a capire come rimorchiare una ragazza vedendo Mastroianni piuttosto che non vuole fare i nomi di oggi, non so se mi spiego. Sì, allora. Secondo me è importante, io vengo da una generazione in cui andare al cinema o anche vedere certi film alla televisione ti servivano per vivere, cioè ti aiutavano a vivere. Cioè, io non andavo al cinema per vedere un film o per vedere un regista, ma che me ne fregava, che ne sapevo io chi era Fellini o quant'altro, lo vedevo perché mio padre era appassionato di cinema, insomma in casa mia si vedevano questi film, non si vedeva, cioè si vedeva anche Sandokan, però insomma non male. Francesca mi scrive le domeniche alle 18, esatto, cioè in casa io sono fortunato perché questi film qui per la prima volta li ho visti a 5 anni, 10 anni alla RAI, quando la RAI faceva la televisione faceva i miei film e non li faceva alle 4 di notte, e per cui appunto sono fortunato, cioè io Casablanca l'ho visto da bambino, questa cosa mi è cambiato la vita, io Il gatto pazzo l'ho visto da bambino, infatti faccio questo lavoro, fatto bene o male, mi ha cambiato la vita. Senti Marco, volevo chiederti quali sono stati i criteri di scelta di tutti questi titoli? Guarda, che serie di scelta sono stati, allora, tutto in ordine, raccontare un decennio attraverso i grandi film e i grandi film d'autore, ok? Sì. La fortuna vuole, per noi, che me e Francesca facciamo questo lavoro, che in questo decennio hanno debuttato grandi maestri del cinema mondiale, sì, le grandi voci, sì, della cultura mondiale, perché poi parlare di cinema tante volte si va a parlare appunto di una visione a tutto tondo culturale dell'esistenza e della storia. Fellini e Antonioni, per dirne due. E per cui sono stati scelti, come dire, i film che secondo noi, da tutti i film più belli, e ti assicuro la prima selezione le prevedeva 80, sì, per motivi di tempo ne abbiamo salvati, come buttare giù dalla torre, cioè, sì, una specie di scelta di sofficio, un dolore, capito, togliere quello oppure, però immagino cosa, i più emblematici, insomma, i più emblematici, mm, e il film che ci piacerebbe che qualcuno che non li avesse mai visti li vedesse oggi, ok? Sono film importanti per il loro periodo, perché sono gli anni 50 e parlano di lotte politiche, parlano di ricostruzione, parlano dell'invasione appunto dei media, bellissima, di Visconti, un film importantissimo, c'è, cioè, Anna Magnani che spacca, ma è un film importantissimo su come l'illusione e sottrarsi dall'illusione di quel che la notorietà facile può portare. Già allora, c'è un film di 66 anni fa e si parla già di X Factor, non so come, sì, dire, sì, sì, sì. Per quei film che fossero capolavori dal punto di vista, certo, del linguaggio, certo, e del contesto, certo, storico, ma che ancora oggi fosse interessante riproporre per far capire che cosa è successo nell'Italia degli anni 50. Sì. Per cui, e poi un'altra cosa, questo lo voglio dire, che è una novità, la domenica alle ore 18. Allora, negli anni 50 nasce la commedia, allora, per cui due filoni, il filone appunto che è uscito dal neorealismo, il filone che del neorealismo appunto ha iniziato anche un po' a sottrarsi, introducendo, come dire, il primo racconto dell'analisi del malessere interiore, per cui i vari Antonioni piuttosto che quant'altro, e in più la grande nascita del nostro prodotto nazionale, cioè la nostra pizza mondiale, la commedia all'italiana, sì, cioè, sì, negli, sì, anni 50 ridere era una cosa pazzesca, fatto benissimo, perché si poteva, come dire, appoggiare sul talento di persone che si chiamavano, certo, Totò, Alberto, certo, e quant'altro, certo. Non è una rassegna nostalgica, cioè, certo, non si sbagliare, è una rassegna nella quale guardate e scherzate da ridere. Allora abbiamo deciso, dato che i film erano tanti, non volevamo sacrificarne troppi, di aggiungere una frizione alla domenica alle 18 e di metterci le grandi, non solo lì perché sono tantissime le commedie, però la domenica alle 18 ci sono le grandi commedie di Monicelli, di Stefano. Ok, quindi la domenica è dedicata più alle commedie. Una domenica in famiglia, per, sì, dirla appunto, sì, un po', sì, alla RAI. Senti, Marco, sì, in chiusura, i riferimenti, sì, web per il programma. Allora, palazzoesposizioni.it, www.palazzoesposizioni.it, le proiezioni su tutte le pellicole 35 mm, è ingresso gratuito fino ad alimento posti. Benissimo. Ci sembra un servizio, certo, per la, certo, città, grazie alla Cineteca Nazionale che ci presta questi meravigliosi film in pellicola. Scalinata di Via Milano 9A, i film iniziano tutte alle 21, arrivato un po' prima, e soprattutto venite a vedere o rivedere perché fanno piacere, cioè, certo, sono belli da vedere e rivedere. Okay? Marco, io ti ringrazio, okay, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a voi, ciao. Ciao. Marco Berti del Palazzo delle Esposizioni per parlarci di Cine 50, 10 anni di cinema italiano fino al 22 maggio a ingresso gratuito. Egidio Eronico, regista del documentario Nessuno mi troverà, in uscita in sala domani, venerdì 15 aprile. Egidio, ben ritrovato su queste frequenze. Ben trovati. Ciao. Allora, una storia importante, una sparizione illustre, raccontaci un po' di cosa si tratta. Diciamo che il film affronta la figura di Ettore Majorana in maniera, lo posso dire, forse inconsueta, nel senso che prende le distanze da tutto quello che si è detto in più di 60 anni su Ettore Majorana e dice la sua, racconta un'altra storia, quindi presentando in qualche modo un Majorana inedito, fuori dai cliché che lo vogliono un uomo geniale, uno scienziato di grande genio, ma triste, tormentato, scontroso, misantropo e chi più ne ha più ne metta. Senti, Egidio, su cosa ti sei basato? Su quali materiali ti sei basato per la costruzione del film? Dunque, alla luce, insomma, all'origine del film, io all'inizio volevo fare, stavo lavorando a un film di finzione su una parte della vita di Majorana, fino a che mi sono, tra le mie ricerche, mi sono imbattuto in un libro in inglese per me fondamentale di Francesco Guerra e Nadia Robotti, e da lì praticamente ho spezzato a 180 gradi, perché avevo già, diciamo così, un po' l'inquietudine di mio mentre scrivevo il film, e ho capito che piuttosto che raccontare una storia appunto in qualche modo verosimile, come si può fare con la finzione, dovevo fare i conti prima con la verità, e così ho fatto. Quindi grazie a Francesco Guerra e Nadia Robotti mi sono messo su un'altra strada, il che non vuol dire che non farò un film di finzione un po' più avanti, ma intanto appunto volevo dare testimonianza di quello che avevo capito e che avevo scoperto. Senti, rispetto alle versioni ufficiali, qual è stato insomma il tuo percorso? Se per le versioni ufficiali ci si concentra unicamente sulla scomparsa, devo dire che io non ho alcune ipotesi, non neanche alcuna tesi, e quindi credo che Majorana abbia fatto una scelta volontaria personalissima, e quindi di sottrarsi in qualche modo alla vita quotidiana, e prendendo le distanze da quello che era stato il suo mondo e da quelle che erano state le sue famiglie, sia quella d'origine ovviamente che quella scientifica e altro. Per il resto appunto si parla di un uomo, invece di un intellettuale di grandissimo spessore. Sullo scienziato ovviamente c'è poco da dire, solamente oggi con la fisica dei neutrini si può capire quello che aveva predetto Majorana già nel 1936. Insomma, i suoi studi vanno a verifica sperimentale solamente adesso in tutto il mondo, e con progetti diciamo molto, molto importanti. E per il resto appunto si tratta di un uomo, di un giovanissimo uomo molto curioso, molto audace e coraggiosissimo nell'accontentarsi di nessuna verità preconfezionata, e che accettava qualsiasi sfida. Ecco, dal punto di vista umano un po' di caratteristiche ce le hai dette, ma cos'è che ti ha sorpreso di più nella sua figura? Beh, la sua modernità, nel senso la sua contemporaneità in un qualche modo, nel senso che la storia di Majorana sembra essersi conclusa ieri sera e somiglia ai noi purtroppo alla storia di molti giovani di talento, anche italiani e non solo, che però devono fare i conti con l'immobilismo del proprio paese e così insomma con una visione del futuro francamente a volte sconfortante. Quindi la storia di Majorana è esemplare anche per i nostri giorni, insomma. Io ho due figli, quando li guardo insomma non posso non pensare a lui, no? Che comunque insomma voglio dire insomma Majorana è la tipica figura del ricercatore indipendente, sì, da tutto e da tutti, che fatica moltissimo, ma è anche un personaggio indomito, e quindi magari riesce a ottenere fuori di casa quello che a casa doveva in qualche modo patire, sì, per avere. Peraltro anche dallo stesso Fermi o così dal cosiddetto ambiente di via Panisperi. Senti Egidio, in chiusura, in quante sale sarà da domani il tuo lavoro, e poi in rete dove si può cercare per saperne di più? Dunque, in rete mi sembra in questo momento, mi dicono abbastanza cliccatissimo sul sito di Repubblica.it, sì, e nelle sale a partire da domani, venerdì 15 aprile, un po' ovunque un po' in Italia. Io seguirò il film in un tour promozionale nelle città di tutta Italia, e niente, speriamo che attragga la curiosità degli spettatori per avere un po' di tenitura. Bene, Egidio, io ti auguro un in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. A presto, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao Federico. Ciao. Egidio Eronico, regista del documentario Nessuno mi troverà, Majorana Memorandum, da domani nelle sale. Silvio Giannini, regista del documentario Petrolio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Silvio. Grazie per l'invito, buongiorno. Mi sembrava un argomento piuttosto importante anche in vista del prossimo referendum. Petrolio, di cosa parla? Petrolio è un documentario che abbiamo iniziato nel 2015, abbiamo avuto l'intuizione un anno fa di capire che all'interno del tema del petrolio c'erano parecchie cose da sviscerare, e abbiamo Petrolio si presenta come un documentario di inchiesta sulle concessioni governative per la ricerca del petrolio nel mare Adriatico, ma non soltanto nel mare Adriatico, in Italia in generale. Senti, allora è partita da questa volontà, e poi come avete proceduto? Sì, abbiamo iniziato al termine di un corso alla Puglia Film Commission, avevo sentito questa notizia della ricerca del petrolio, mi era molto incuriosita perché volevamo fare un testamento a tutela del mare, e abbiamo iniziato a raccogliere interviste. Quando abbiamo raccolto la prima intervista da parte di un professore, avevamo capito che la tematica era scottante, e infatti la nostra ricostruzione storica andava indietro nel tempo anziché andare avanti. Al 1962, anno della morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei, successivamente nel 1970, quando il regista Francesco Rosi decide di girare il caso Mattei e affida la ricostruzione delle ultime ore di vita del presidente a un giornalista. Questo giornalista si chiama Mauro De Mauro, e Mauro De Mauro, dopo aver accettato l'incarico del regista Rosi, scompare dopo due mesi, e pensate, il processo si è concluso solo l'anno scorso con l'assoluzione dell'unico imputato di questo processo, che è Totò Riina, quindi attualissimo anche visto il servizio pubblico che ha trasmesso insomma una trasmissione con il figlio di Riina. È un tema quindi che riguarda la politica, che riguarda la mafia, che riguarda il giornalismo, che riguarda l'ambiente. Quali sono stati, Silvio, i vostri interlocutori? Allora, per essere fedeli al documentario, abbiamo cercato di sentire tutte le parti, quindi abbiamo intervistato principalmente parlamentari, abbiamo intervistato i sindaci, che sono gli enti locali che sono espulsi dai processi autorizzatori, quindi sono coloro i quali non vengono ascoltati in materia di ricerca di petrolio. Abbiamo ascoltato anche le associazioni ambientaliste, i professori, perché la parte più importante attiene agli uomini di scienza, che sono le persone davvero competenti in materia ambientale, che però sono al servizio della politica. Quindi abbiamo cercato di fare una ricostruzione storica, ma soprattutto di sentire più voci. Dispiace soltanto non essere riusciti a raccogliere alcun intervento da parte di chi invece pubblicamente si schiera a favore delle trivelle, che non si è sentito di rilasciare alcuna dichiarazione. Senti Silvio, ecco, al di là delle opinioni avete sentito tutte e due le parti in causa, quali sono i dati effettivi incontrovertibili? I dati effettivi, innanzitutto, io ho studiato giurisprudenza, quindi per essere fedele agli studi giuridici ho cercato di citare tutte le fonti, quindi sono fonti che sono oggettivamente consultabili sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico, guarda caso lo stesso Ministero che si è espresso qualche giorno fa. E i dati controvertibili sono quelli del referendum. Mi piace sottolineare questa cosa: noi oggi in Italia andiamo a votare sulla proroga o meno di concessioni, di autorizzazioni che sono state rilasciate da parte della commissione VIA, una commissione che rilascia pareri positivi di compatibilità ambientale, che fino all'anno scorso era di nomina ministeriale, quindi il ministro dell'ambiente era discrezionalmente libero di nominare qualsiasi persona, senza che ci fosse un vaglio, senza che ci fosse una candidatura pubblica, senza insomma che quel ruolo fosse coperto da una persona effettivamente competente. Quindi noi oggi andiamo a votare sulla proroga o meno di autorizzazioni rilasciate con questo criterio, senza che esistesse una legge sul conflitto di interessi. Quindi senza che esista un super partes in questo senso che decida. Senti, allora quali sono state, a questo punto ti chiedo anche le cose che ti hanno più sconvolto, le verità che ti hanno più sconvolto, oltre a questa che ci hai appena detto, che insomma è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Le verità, allora, noi abbiamo il documentario, si chiama Petrolio, come il celebre romanzo di Pierpaolo Pasolini, sì. E già il fatto che il giornalista Mauro De Mauro, Pierpaolo Pasolini e lo stesso presidente Enrico Mattei, che erano delle persone cardini, delle persone che avevano un ruolo importantissimo non abbiano avuto la verità storica e non soltanto la verità giuridica, già questo dovrebbe far gridare allo scandalo. Sì. Che in Italia non siamo riusciti, insomma, a mettere un punto fermo su queste storie. Altro dato incontrovertibile che ci fa veramente rimanere perplessi è l'attuale compagine ministeriale. O meglio, vi spiego, l'attuale ministro della giustizia, che è Andrea Orlando, era precedentemente ricopriva il ruolo di ministro dell'ambiente. Questo ministro non è laureato. Ora, non che la laurea legittimi o meno il posto di lavoro, però noi sappiamo bene che quel ruolo, il ministro dell'ambiente, è un ruolo cardine. Sì. Come si può passare da essere ministri dell'ambiente, che richiede delle competenze scientifiche, a diventare ministro della giustizia, che richiede tutt'altre competenze? La Laura Insigne, ministro della salute, non è laureata. Poletti, ministro del lavoro, non è laureato. Noi pensiamo che in un paese come l'Italia, che stia andando soprattutto verso i giovani, chiedendo più specializzazioni, più competenze, più master, credo che sia un po' un dato su cui riflettere, ecco, se veramente le persone che ci governano oggi sono poi effettivamente competenti e in grado di rispondere a quelle che sono le nostre esigenze. Mm-hmm. E un altro dato importantissimo è la legge sui reati ambientali. Quando c'è stato il passaggio dal Senato alla Camera sull'Ergan, che è una tecnica che utilizzano le petroliere per cercare il petrolio, al Senato l'Ergan era considerato un reato punibile con il carcere. Nel passaggio dal Senato alla Camera è stato espulso quell'emendamento che prevedeva l'Ergan come reato, quindi tecnica oggi tuttora lecita, con voto a scrutinio segreto. Beh, Silvio, mi sembra molto indicativo il tuo lavoro anche in vista appunto del referendum. A questo punto, per saperne di più sul web, dove è possibile informarsi? Allora, abbiamo una pagina Facebook che è Petrolio il documentario, in cui ci sono aggiornate tutte le date con tutte le proiezioni, e abbiamo deciso di rendere disponibile gratuito su internet con l'indirizzo petrolio.info il documentario, che sta ricevendo tanti download proprio perché sta catturando l'attenzione di molte persone che si vogliono informare. Tra l'altro, non c'è una produzione, e questo, diciamo, che legittima ancora di più il lavoro, perché nessuno ci ha imposto chi intervistare oppure no. È stato sostenuto grazie ai privati, è un progetto tra l'altro low cost, costato solo 2000 euro per 8 mesi di lavoro. Bene, bene. Silvio, è stato un piacere, speriamo di risentirci anche prossimamente, le indicazioni ce le hai date, e un abbraccio. Grazie a voi, grazie, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Anche a te. Ciao Silvio. Silvio Giannini, regista del documentario Petrolio. Valentina Signorelli, regista del documentario Ansersa Trace the Future, al Cineclub de Tour sabato 16 aprile qui a Roma. Valentina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Mi aveva incuriosito il tuo lavoro perché recentemente ha ottenuto un premio del pubblico in una rassegna di cui ci siamo occupati. Raccontaci un po' di questa storia. Ansera è una parola in dialetto bergamasco che significa noi eravamo, ed è una sorta di road movie con uno stile tra documentario e fiction alla riscoperta della città di Bergamo, dove il film è stato girato, attraverso gli occhi della protagonista, che ha praticamente 90 anni. Ci ha incuriosito la vicenda personale della protagonista, abbiamo riesplorato la città attraverso appunto l'immagine filmica. E lo spunto, l'idea di partenza da dove veniva? L'idea di partenza è nata dal mio collega, l'altro regista del film, Lorenzo Giovenga, che è un ragazzo di Roma, che era stato a Bergamo per lavoro, aveva incontrato poi questo signore e si era appassionato alla sua storia, perché anche io sono di Bergamo e forse ero molto più esposta a questi racconti, a questa abitudine quasi culturale, mentre il mio collega, no, venendo da una città diversa, e ha potuto cogliere a livello quasi immediato queste caratteristiche e queste divergenze culturali che poi l'hanno spinto a proporre l'idea del film, che poi abbiamo sviluppato e realizzato. Senti, il passato di questa città cosa ci racconta? Ma innanzitutto ripercorriamo 90 anni della città di Bergamo, dal periodo fascista fino alla, ovviamente alla seconda guerra mondiale, al boom economico, e anche alla crisi degli ultimi anni. E il filo conduttore cerca da un lato di andare a rintracciare il passato, degli elementi che si stanno perdendo, una generazione che si sta perdendo, ma per capire come i problemi del nostro presente e del nostro futuro siano in un certo senso collegati da tutte queste generazioni che si sono seguite. Cioè non c'è nulla che va perso, ma forse attraverso il passato possiamo riscoprire degli strumenti che ci aiutino ad affrontare il presente e il futuro. Ecco, a questo proposito, come si traccia il futuro a partire da ciò che è stato? La nostra idea per risolvere questo problema, diciamo questa questione durante le riprese, era appunto di mettersi in ascolto, cioè sì, di non utilizzare filtri culturali contemporanei per approcciarsi al passato, ma mettersi in ascolto della generazione precedente, che è di due generazioni fa fondamentalmente, un certo tipo di generazione che non è immediatamente comprensibile, che si sta perdendo. Però il nostro approccio è stato un approccio appunto di ascolto e attivo, che ha permesso di non appiccicare filtri culturali contemporanei alle cose che non comprendevamo. Sì, e sì, lì abbiamo riscoperto molti elementi che non avremmo mai pensato di riscoprire. Ossia? No, il fatto che c'è comunque un legame, sì, tra le generazioni, che può sembrare qualcosa di scontato e banale da un certo punto di vista, però abbiamo riscoperto molti più elementi di somiglianza, come ad esempio può essere la solitudine oggi di questa signora e la solitudine anche delle persone emigrate all'estero, come pure io sono un italiano emigrato all'estero. Questo è un esempio molto, molto interessante, capire come vari tipi di solitudine che rientrano all'interno della quotidianità poi siano comuni anche a generazioni a trascorsi molto distanti tra di loro. Senti, che percorso ha avuto il documentario? Il film è stato inizialmente autoprodotto, sì, con una troupe ridotta appunto di giovani professionisti tra i 19 e i 29 anni, alcuni provenienti da Bergamo, altri da Roma e altri da Londra, dove io attualmente insiedo. Successivamente ha avuto il supporto di Fondazione Credito Bergamasco, che ci ha permesso di completare la post-produzione, e altri partner di carattere nazionale e internazionale come University of Westminster, il Comune di Bergamo, Kidoki Film e l'Eco di Bergamo. È stato poi presentato allo Sguardi Altrove Film Festival di Milano, dove è stato selezionato come film di apertura, e poi abbiamo lì vinto il premio del pubblico. Sì. Attualmente stiamo lavorando a un'edizione in DVD che speriamo possa uscire entro il 13 dicembre, che è la festa di Santa Lucia, che è una festa molto sentita nel territorio bergamasco, e siccome il film è ambientato interamente in quella giornata, stiamo lavorando per farlo uscire in quel periodo, insomma. Senti, sul web c'è uno spazio di riferimento? Sì, c'è una pagina Facebook che si chiama appunto Ansera Trace the Future, ed è la nostra pagina ufficiale dove postiamo in tutti i nostri aggiornamenti e interagiamo anche con i nostri follower. Bene, allora Valentina, lì immagino che ci siano anche dei calendari di proiezione. Sì, al momento abbiamo questa proiezione a Roma sabato al Cinema de Tour. Sarai presente anche tu? Sì, io sì, e lei, Lorenzo Giovenga, l'altro regista. E successivamente stiamo ora fissando tutta una serie di proiezioni tra l'Austria, il Regno Unito e l'Italia, quindi diciamo tra qualche settimana avremo maggiori news postate sulla nostra pagina, siamo ancora in via di definizione. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci. Grazie presto. Mille. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, ciao. Valentina Signorelli, co-regista del documentario Ansera Trace the Future al Cineclub de Tour sabato 16 aprile. Con lei chiudiamo l'appuntamento settimanale con il cinema, quello di Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.fis.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. E per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, le informazioni le trovate sull'home page del sito della radio, sulla colonna centrale trasmissioni alla voce Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari.